Gesù era intollerante? Leggo nella Bibbia in Giovanni 14,6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Qualche tempo fa una persona mi disse: tu sei intollerante, come puoi pensare di avere la verità e che tutti gli altri non siano salvati? Interessante. Ero considerato intollerante perché dichiaro alle persone che devono credere in Gesù Cristo per essere salvati. La cosa mi ha fatto riflettere. Mi sono reso conto che oggi si ha un'idea strana di cosa sia la verità e un'altrettanto strana idea di cosa voglia dire essere tolleranti. Ecco la definizione di tolleranza, secondo il vocabolario della lingua italiana: disposizione a comprendere e a rispettare idee e comportamenti diversi dai propri. La tolleranza porta alla comprensione e al rispetto di comportamenti diversi dai propri, ma questo non vuol dire ritenere giusti quei comportamenti. Ho un profondo rispetto per la vita che mi porta a rispettare anche chi non condivide la mia fede, lasciandolo libero di praticare il proprio credo, ma questo non significa che io condivida quel credo. Oggi invece la tolleranza viene quasi intesa come un'accettazione del fatto che tutti i credi, tutti gli stili di vita e tutte le percezioni della verità siano equivalenti. Questo porta ad un relativismo molto pericoloso. Infatti la verità per sua natura non può essere inclusiva anche del suo opposto. Ecco la definizione di verità dal vocabolario: ciò che è vero rispondente alla realtà in relazione a determinati fatti. Si contrappone a falsità, menzogne e bugia. Un'altra definizione: ciò che è vero in assoluto. E ancora un'altra definizione di verità: rispondenza al vero, alla realtà. Leggendo queste definizioni ci rendiamo conto che la verità per sua natura si contrappone a ciò che è falso. Quindi io non posso credere che una cosa sia la verità e allo stesso tempo credere che il contrario di quella stessa cosa sia essa stessa verità. La verità esclude ciò che è falso. Io non posso dire che Roma è la capitale d'Italia e nello stesso tempo affermare che Napoli sia la capitale d'Italia. Una delle due affermazioni è vera, l'altra è falsa. Certo, pur non condividendo l'affermazione secondo cui Napoli sarebbe la capitale d'Italia, non andrò in giro a sopprimere chi la pensa in quel modo. Ovviamente se io andassi in giro a prendere a schiaffi tutti coloro che non credono in Gesù, non sarei una persona tollerante. Tuttavia sono assolutamente convinto che Gesù sia la verità e non posso affermare qualcosa di diverso. Sono tollerante, rispetto il prossimo, ma non rinuncio alla verità in quanto tale. Oggi si tende a credere che la tolleranza debba portarci a dire che tutte le risposte alla stessa domanda, anche quando in contraddizione tra loro, siano giuste. Viene proposto un modello di tolleranza secondo cui io dovrei rinunciare alla verità per lasciare spazio alle bugie. Ma questo è assurdo, questa non è tolleranza. Io sono tollerante verso una persona quando la rispetto come persona, anche se non condivido le sue opinioni e sono convinto che siano sbagliate. Gesù, di fronte alla domanda di Tommaso, suo discepolo, che gli chiedeva quale fosse la via per andare nella casa del Padre, rispose con il verso che abbiamo appena letto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù non indicò una serie di possibilità tra cui scegliere. Non disse che ci sono molti modi per andare al Padre. Non espresse una semplice opinione sulla verità. Egli indicò l'unica verità possibile. Egli è la via, la verità e la vita. Nessuno avrebbe potuto trovare scorciatoie o strade alternative. Oggi questa risposta di Gesù sarebbe etichettata come intollerante. Ma quando leggiamo gli Evangeli, vediamo che Gesù amava le persone che lo circondavano ed esortava anche ad amare i propri nemici. Come si può considerare Gesù intollerante? Ma quando si trattava di stabilire la verità, Gesù non scendeva a compromessi. Allora noi cristiani passiamo per intolleranti se diciamo alla gente che solo in Cristo possono essere salvati? Ma cosa dovremmo dire agli altri? Cosa dovremmo dire ai nostri amici o parenti a cui vogliamo bene? Non siamo forse in dovere di dire loro la verità? Se siamo seguaci di Gesù, dovremmo forse dire qualcosa di diverso? Dovremmo dare false speranze per mostrarci più tolleranti? Mi rendo conto che molte persone che leggeranno queste righe potrebbero avere grande rispetto per Gesù come profeta o come grande uomo, pur rifiutando l'idea che la salvezza sia solo in Cristo. Ma io vi chiedo, come potete considerare Gesù un grande uomo di Dio e allo stesso tempo rifiutare ciò che lui stesso ha detto di sé? Come possiamo rispettarlo se in fondo crediamo che egli andasse in giro a dire menzogne? Ha forse Gesù esagerato quando ha detto di essere la via, la verità e la vita? Ha forse esagerato quando ha detto che nessuno sarebbe venuto al Padre se non per mezzo di lui? Credetemi, non è questione di essere più o meno tolleranti. Come discepolo di Gesù non posso fare altro che credere alla sua parola, e quella parola non mi lascia altre possibilità di scelta. Continuerò ad amare il prossimo e a rispettare le sue scelte, ma continuerò anche a proclamare che esiste una sola verità, e quella sola verità si chiama Gesù Cristo.